la guerre. Mitraillage, fusée, grenade et revolver. Cicatrici, se il mondo va veloce tocca avere un paio d'ali, ti sporchi le mani per salire i piani. Il mondo degli affari a volte sale a volte scende, c'è chi cammina avanti e il suo cuore non lo vende. Peace and love come lo zio Bob. Stop the war, I'm a rock and roll. Sodoma e Gomorra sono sempre in guerra e Babilonia ride perché l'odio è sulla terra. I figli di Mosè sono sempre in lotta, Giuda ha costruito una città corrotta. Stop the war, stop, stop the war, stop the war, stop, stop the war. L'explosion, la tristesse, mon retesse, motherfucking bush. Un ton est blanc, au nom des dieux, j'écris, cher Bagdad et Palestine, frère. C'est les couleurs de la guerre. Mitraillage, fusée, grenade et revolver. I colori della guerra sono il verde del cash. Non ci sono più valori per combattere lo stress. Fiumi di coca attraversano la city. Seguono la moda, vogliono essere dei miti. Business pronto cash, altrimenti sei fuori. Le banche sono chiuse come tombe senza fiori. Politici corrotti a braccetto coi questori. Ragazzi per mezzetti riempiono prigioni. Storie, ragazzi per mezzetti riempiono prigioni.